Ragionate bene. Le voci dei venti vengono interpretate solo se la frequenza è maggiore o uguale alla minima accettata e minore o uguale alla massima accettata.